allegramente pur Dorina mia, che il padron finalmente è andato via, è andato alla città e fin dopo domani non tornerà. Quanto sarà contenta la padrona di poter fare le sue coi cicci svegli. De non pensare a lei, pensa piuttosto, cara, a chi più t'ama. Zitto, Mingo, che la padrona chiama. Che chiami quanto vuol, dimmi mia bella, sarai tu di Mingon la pastorella. Un'altra volta poi risponderò. Sa che l'amo l'ingrata e gode in tormentarmi. Cospettone, siete già di ritorno, mio padrone, non andasti in città? E nessun che mi vegga. Che mai vuol dire? Dimmi. Sei tu capace di chiuderti nel cuore un gran segreto? Tener segreti in petto, o questo no? Vedi tu questa borsa? Sì, signore. Ella potrà essere tua quando fedel mi sia. Quando è così, non fiato in vita mia. Tu sai chi sia quel diavol di mia moglie? Fin qui comincian bene. So che mi inganna e voglio. Adesso intendo perché creder faceste alla padrona che alla città andavate. Ah, questa è buona. Voglio con gli occhi miei veder la sua condotta. Voglio coi damerini sorprenderla ogni patto. E da me che volete?